24 mattino. Le 8 e 17 minuti, ben ritrovati con 24 mattino, 349 238 6666 per i vostri messaggi, l'economia. Soldi e dintorni. Con Deborah Rosciani, eccoci qua. Buona giornata a tutti, buon venerdì soprattutto. Allora, oggi parliamo, come detto, delle regole di trasparenza sulle operazioni e servizi bancari. È un tema molto, molto interessante perché davvero ci coinvolge tutti in prima persona. Sì, anche perché la crisi finanziaria in corso, che non ha sicuramente ancora esaurito tutti i suoi effetti, ci ha reso tutti un po' più sospettosi, un po' più cauti nel rapporto con la nostra banca, dalle operazioni più semplici, da quando andiamo ad aprire un conto corrente, a quelle un po' più complicate, più sofisticate, quando cioè andiamo a sottoscrivere un prodotto di investimento, quando invece sottoscrivendo un mutuo ci impegniamo per tanti anni nella nostra vita. E allora tutto ciò è è inserito nell'arco di tutti quei motivi per cui Banca d'Italia ha deciso nei giorni scorsi di riscrivere le regole in tema di trasparenza bancaria. La Banca d'Italia ha pubblicato mercoledì sul suo sito un documento relativo a queste nuove disposizioni in tema di chiarezza delle operazioni dei servizi bancari e sulla correttezza nei rapporti fra intermediari e clienti. Questo è un documento che resterà pubblicato sul sito della Banca d'Italia per un mese, anche a disposizione delle banche per eventuali osservazioni o richieste di chiarimenti, anche se speriamo insomma che tutto ciò poi avvenga non su internet ma per vie formali. Tra i punti principali richiesti: documenti bancari più semplici, costi di conti correnti e fidi evidenziati in modo più chiaro e il riepilogo annuale delle spese da inviare ai correntisti. Allora, per tentare di capire e spiegare queste nuove regole, soprattutto in che modo le banche si dovranno adeguare, abbiamo con noi Massimo Roccia, direttore generale dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, e segretario generale del Consorzio Patti Chiari. Dottor Roccia, buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a voi. Allora, tra l'altro dopo spiegheremo anche che le nuove linee guida volute da Banca d'Italia recepiscono anche gli strumenti già sviluppati da Patti Chiari, ne ricorderemo la funzione, ma ci può ridare un po' l'elenco, le caratteristiche di queste norme di Palazzo Koch, dottor Roccia? Che cosa prevedono le nuove regole volute da Banca Italia? Due obiettivi di fondo: il primo è la semplificazione, quindi documenti per i clienti più sintetici e più facili da leggere. Il secondo è la sintesi standardizzata. È stato cioè previsto, come era già stato inaugurato da Patti Chiari in autoregolamentazione, che una parte del cosiddetto foglio informativo sia identico in tutte le banche nella sua impostazione, affinché sia più facile per i clienti confrontare in pochi minuti le condizioni tra un prodotto e quello di un'altra banca. Quindi noi siamo molto soddisfatti per una riforma che recepisce tutti quegli strumenti di trasparenza e di comparabilità che erano stati costruiti con gli schemi di autoregolamentazione Patti Chiari nel tempo, e in particolare, se li posso citare, la tecnica dei profili tipo di utilizzo, cioè consentire al cliente, per capire meglio il prodotto, di fare riferimento a un profilo di consumo del conto corrente annuale e essere consapevole di appartenere a quel profilo, in modo tale che diventa più facile la comparabilità. Dire quest'anno io con questa banca ho speso tot, non sono soddisfatto, vado a vedere se posso ottenere qualcosa di meglio da un'altra parte? Esatto, significa io so qual è il mio profilo di utilizzo, per esempio famiglie con esigenze elevate piuttosto che giovani senza reddito, e sapendo che appartengo a quel profilo ho una comparabilità più immediata perché posso confrontare in modo omogeneo prodotti di diverse banche. Questo è ancora di più agevolato dalla seconda innovazione, che è l'indicatore sintetico di costo, cioè esprimere il prezzo del conto corrente in un solo numero, quello che avevamo noi già fatto da alcuni anni dentro il motore di confronto di Patti Chiari, ma che adesso diventa una norma di legge. E che va esteso, se non sbaglio, anche ad affidamenti, a prestiti, ad altro. Esatto, è esteso anche alla parte del credito, diciamo così, personale, e ancora di più faciliterà i clienti nel confrontare le tante offerte sul mercato e soprattutto l'incrocio tra questo famoso indicatore sintetico e i profili tipo. A questo punto il cliente, sia sui motori di confronto che sulla carta, diciamo così, dell'indicazione che trova in filiale, potrà sapere in pochi istanti qual è il costo di un prodotto rispetto a quello di un'altra banca, incrociando appunto l'indicatore sintetico con il profilo al quale appartiene. Ecco, ma dottor Roccia, noi lo avevamo già adesso, per esempio, per prestiti e mutui, avevamo già l'ISC, l'indicatore sintetico di costo del mutuo, e il TAEG, per esempio, per il prestito. Che cosa chiede in più Banca d'Italia esattamente? chiede che questo siano inseriti dentro modelli di informativa maggiormente standardizzati. Quindi l'obiettivo al quale si sta arrivando è quello di dare ai clienti documenti di comprensione immediata, perché basati su una sintesi. Solo per fare un esempio, nel caso dei conti correnti, il foglio informativo con queste innovazioni, che appunto recepiscono il prototipo che avevamo elaborato dentro Pattichiari, si è ridotto dell'80% del numero delle pagine. Crediamo che questo sia un grande vantaggio, perché nessun cliente è disposto a leggere fogli informativi da 15-16 pagine. Credo che sia qualcosa, come dire, di positivo anche storico, ma anche di positivo per la banca. Sicuramente molta meno carta in circolazione, un rapporto più diretto con la clientela. La banca deve cominciare a parlare chiaro, questa mi sembra anche il messaggio chiaro della crisi in corso, ed è come ammettere, con le nuove regole riscritte da Banca Italia, dottor Roccia, fino ad ora non è stato fatto, è stato fatto molto male? Parliamoci. No, la riforma ovviamente recepisce dei cambiamenti normativi che sono avvenuti in questo periodo, ma soprattutto che il mercato è cambiato, il mercato è andato su prodotti molto più semplici e molto più profilati, cioè prodotti fatti apposta per certi tipi di clienti, e per questo anche dentro il sistema di confronto noi avevamo adottato la tecnica dei profili, quindi un prodotto adatto specificamente per un cliente. Questo è l'esigenza fondamentale, perché riduce i tempi, diciamo, di comprensione per il cliente, e siamo molto felici che sia stata elevata a ormai disposizione generale. L'altra grande riforma riguarda i fogli informativi, come dicevo, e cioè questa scheda informativa di sintesi messa in testa al foglio informativo, che racchiude in una sola pagina, ripeto, una sola pagina di circa 30 righe, il costo del conto corrente. Quindi il cliente ci avrà un'informazione sintetica molto molto importante, che gli spiega in una pagina il costo del conto. Tasse comprese? Come? Tasse comprese, imposte comprese? Le tasse sono indicate a parte, perché non rappresentano un pezzo del prodotto, purtroppo questo invece è un punto dolente, come abbiamo detto spesso in questa trasmissione, perché siamo arrivati, pensate, al punto in cui ci sono dei prodotti che costano più di tasse che di prodotto. Questo è un assurdo, ma significa che mentre i mercati con la concorrenza raggiungono elevati livelli di efficienza, ovviamente le tasse non hanno nessun concorrente, quindi l'altro aspetto importante è che... Volevo sapere, dottor Roccia, quanto tempo hanno le banche adesso per adeguarsi a questi nuovi standard di comunicazione? Questo è uno degli elementi della consultazione, la consultazione serve anche a determinare i tempi di adeguamento. Le banche che hanno già seguito il modello Pattichiari praticamente non devono far nulla, perché questo è stato elevato a regola generale. Le altre banche, ma che sono comunque una minoranza nell'industria, devono invece introdurre questi schemi, che prevedono come ultime due cose delle guide informative per la clientela, quella sui conti correnti, sui mutui e i meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie, e infine quello che noi chiamiamo il servizio bancario di base, cioè un prodotto molto semplice e molto economico per favorire la bancarizzazione di nuovi clienti. Allora, noi sicuramente seguiremo anche il percorso delle nuove norme per capire quanto e come le banche che non lo hanno già fatto, che non si sono adeguate agli standard già configurati da Pattichiari, ci metteranno ad adeguarsi ai nuovi standard informativi. Un'ultima considerazione, dottor Roccia, molti ascoltatori stanno chiedendo ovviamente perché continuate a chiamare Pattichiari per farvi spiegare tutto questo. Insomma, il tema è quanto vi porterete ancora dietro la macchina, che sembra al momento indelebile, dell'aver commesso il clamoroso errore su Lehman Brothers. Ma noi non abbiamo commesso nessun errore. Oggi non esiste nel mondo, quindi è importante che i nostri ascoltatori lo sappiano, nessuno strumento di misura che garantisca che un titolo non fallisca. Non esiste nessun modo per poter avere certezza sul futuro di una società, perché le obbligazioni che circolano non sono altro che pezzi del debito di una società che compete su mercati di tutto il mondo. Quando la ricerca in campo matematico avrà prodotto un indicatore assoluto, questo sarà probabilmente un grosso bene per tutti. Noi abbiamo soltanto riportato in modo gratuito l'informazione migliore che esiste sul mercato, e poi purtroppo è successo quello che è successo. Dottor Roccia, non riesco purtroppo a farle argomentare ancora questa questione, ma l'abbiamo già fatto più spesso, molto spesso. Ma l'importante è che i clienti sappiano che non esiste nessun titolo sicuro al mondo, perché nessuna società ha una garanzia assoluta di sopravvivere per i prossimi Lo so, questo è vero, però magari c'è qualcuno che lo può sapere un po' prima della clientela finale. Il tema è quello alla fine. Grazie a Massimo Roccia per essere stato con noi. Alessandro, tra poco Deborah, alle 12. Salvadanaio, questa è stata una bella settimana per la borsa, noi affronteremo questo andamento dei mercati, chissà se è tornato un po' di primavera anche sui mercati finanziari. Alle 8:32 minuti, uno sguardo alle ultime notizie. Iniziativa storica del presidente americano Obama, che nella notte ha diffuso un messaggio video rivolto all'Iran in occasione del Capodanno iraniano. Vorrei parlare direttamente al popolo e ai dirigenti della Repubblica Islamica d'Iran, ha detto il leader della Casa Bianca, rompendo il tradizionale messaggio che il presidente americano indirizzava solo al popolo persiano. Con questo gesto Obama riconosce implicitamente il regime degli Ayatollah, con il quale gli Stati Uniti non hanno relazioni diplomatiche dal 1980. La Lega non può volere sempre tutto, così il premier Berlusconi boccia la linea dura degli alleati sulla questione sicurezza. Per Berlusconi la protesta dei 101 deputati del centrodestra contro la norma sui medici spia nasce da un equivoco, ma è condivisibile. E sulle ronde volute dal partito di Bossi, Berlusconi dice: non ne sentivamo davvero l'esigenza. In Austria, ergastolo per Josef Fritzl, l'uomo che ha segregato in cantina per 24 anni la figlia Elisabeth, con la quale ha avuto anche 7 figli. Fritzl, a 73 anni, sconterà la pena in un istituto psichiatrico. Infine il calcio, l'Udinese è ai quarti di finale di Coppa UEFA, friulani sconfitti a San Pietroburgo dallo Zenit 1-0, ma qualificati grazie al 2-0 dell'andata. E intanto Rino Gattuso è il primo calciatore pronto a ridursi lo stipendio. Come dipendente di una grande azienda, ha detto il centrocampista del Milan, anche noi ci dovremo ridimensionare. È il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore, dedicato alle novità proprio oggi svelate dal giornale sugli scudi fiscali. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Oggi il Sole 24 Ore ha un'anticipazione importante, l'idea che alcuni paesi europei, e fra questi anche l'Italia, possano studiare uno scudo fiscale per favorire il rientro in patria di capitali sottratti al fisco. Conferme ufficiali non ce ne sono ed anzi è probabile che i governi al momento smentiscano, ma gli studi esistono e l'idea è seriamente percorribile. Qualcosa di analogo nel nostro paese era già avvenuto tra il 2001 e il 2003 nel passaggio dalla lira all'euro e aveva fatto emergere 83 miliardi. La misura dovrebbe essere accompagnata dall'obbligo di mettere i capitali nelle aziende, che ne hanno bisogno, per almeno 5 anni, o nell'acquisto di titoli di Stato. L'aliquota fiscale allora era del 2,5% e fu giudicata troppo bassa, perché sempre di capitali sottratti al fisco si parla. Dovrebbe essere più alta e con limiti maggiori all'impiego produttivo dei capitali finiti in paradisi fiscali. Paradisi fiscali oggi giustamente sotto tiro. Paesi come la Svizzera, che viste le perdite dei titoli finanziari, tanto paradisi non sono più, e noi non ne siamo per niente dispiaciuti. Buona giornata. Grazie, buona giornata. E l'asterisco con Ferruccio De Bortoli torna lunedì alle 8:33 minuti. Era il 20 marzo, giusto il 20 marzo di 15 anni fa, 1994, Ilaria Alpi, collega della RAI, fu uccisa a Mogadiscio con l'operatore Miran Hrovatin. Io saluto la signora Luciana Alpi, la madre di Ilaria. Signora Luciana, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Sono passati 15 anni, una battaglia alla ricerca di una verità che non è mai arrivata fino in fondo. È questa l'amarezza maggiore oggi? Sicuramente sì. Sicuramente sì, perché noi abbiamo cominciato due giorni dopo la tumulazione di nostra figlia a batterci perché volevamo giustizia e verità e giustizia, perché avevamo capito perfettamente che non era una morte casuale, ma era stata, come poi hanno detto anche dei giudici, un'esecuzione, perché con un colpo alla nuca non può essere altro. Chi vi ha più deluso in questi 15 anni? La politica? Ci sono state commissioni d'inchiesta? L'informazione stessa? I colleghi? Chi vi ha più deluso? Prima di tutto la magistratura, perché non ha fatto, secondo noi, un'inchiesta approfondita, seria, come si doveva fare. Per noi è stata molto superficiale, tanto è vero che siamo a questo punto, sono passati 4 magistrati, adesso ce n'è un quarto e siamo ancora da K12 con novità importanti come quella del DNA che è venuto fuori adesso, eccetera, eccetera. E per cui prima di tutto la magistratura, dopo anche certo la politica non è che abbia fatto niente di particolare per darci giustizia e verità. Comunque, insomma, noi ci battiamo ancora, mio marito un po' meno di me perché purtroppo non sta bene, io ancora mi difendo e vado avanti. Tra l'altro la storia di sua figlia, ma non solo, la storia anche di Raffaele Ciriello, che fu ucciso, fotoreporter ucciso nei territori palestinesi, di Maria Grazia Cutuli, che fu uccisa in Afghanistan, di Antonio Russo di Radio Radicale, trovato ucciso in Georgia, di Enzo Baldoni, che fu ucciso in Iraq. Tutte queste storie sono un po' le storie emblematiche di cosa vuol dire a volte morire per voler informare. Sono diventate un libro che io ho qui davanti a me, si intitola Passione Reporter, edito da Chiare Lettere, ed è scritto dal nostro collega Daniele Biacchessi, che è qui in studio. Ciao Daniele. Ciao buongiorno. A tutti e ciao anche a Luciano. Gli amici di Radio 24 lo conoscono ovviamente, Daniele Biacchessi. Daniele, perché scrivere un libro che vuole essere una testimonianza, un ricordo e anche una ricostruzione di queste persone che sono morte per informare? Sì, questo è un libro di memoria, di racconto ed è un libro di narrazione, è un libro per non dimenticare colleghi che non volevano essere considerati degli eroi, ma che volevano andare nei luoghi, andare a vedere, scrivere, consumare le suole delle scarpe, guardare anche oltre alle verità ufficiali. Ilaria, Miran, Antonio Russo, Raffaele, Ciriello, Maria Grazia Couture, Enzo Baldoni. Beh, Ilaria aveva certamente intercettato traffici di rifiuti tossico-nocivi e armi nella Somalia, nella guerra civile del 1994. Aveva intercettato questi traffici e sono certo che per questo motivo e non per altri è stata uccisa. Antonio Russo è stato ucciso perché aveva denunciato la violenta repressione della Russia contro la popolazione cecena. Lo aveva fatto a Radio Radicale, lo aveva fatto anche pubblicamente. Di Enzo Baldoni si è scritto molto, si è detto molto. Enzo era un giornalista, anche se di mestiere faceva il copy o il pubblicitario. Era un modello di giornalista nuovo, perché per primo aveva inventato la comunicazione attraverso i blog, attraverso le newsletter, e aveva migliaia di persone e migliaia di amici. Di Enzo non c'è un corpo. Io l'ho chiamato Antigone a Baghdad. La storia di Enzo è una storia emblematica che vale veramente per tutti. Tra l'altro, questa domanda se la fa sia Ferruccio De Bortoli, che ha scritto la prefazione del tuo libro, io la vorrei girare anche a Luciana Alpi e anche poi un altro ospite che qui con noi ci sta ascoltando. Signora Luciana, Ferruccio De Bortoli nell'introduzione si chiede: spesso quando succedono queste vicende si dice ma chi ve lo fa fare, ma perché gli inviati di guerra sono visti come persone che vogliono anche un po' in maniera incosciente andare a cercarsi dei problemi per informare, ma perché non ve ne state un po' più tranquilli? Lei a questa domanda si è mai dato una risposta, cioè ne vale la pena rischiare la vita per informare? Non vale mai, la vita è talmente sacra che non vale mai giocarsela per nessuna cosa al mondo, però c'è da dire che se facessero un pochino di più adesso i giornalisti, il giornalismo d'inchiesta sarebbe molto meglio, le persone, l'opinione pubblica sarebbe informata di tante cose che purtroppo è all'oscuro. Per cui io di questo sono molto orgogliosa che mia figlia abbia scelto un giornalismo d'inchiesta, anche se purtroppo certamente mi augurerei che fosse ancora qui insieme a me, cioè, e non esserci più, questo è logico. Comunque, tornando al libro, devo ringraziare Biacchessi perché ha scritto un libro che invito gli ascoltatori ad acquistarlo, perché è veramente un libro importante, un libro documentato. E poi c'è la prefazione del dottor De Bortoli, che io ringrazio personalmente perché l'ho conosciuto, io e mio marito l'abbiamo conosciuto e lo ringrazio veramente di cuore perché ha scritto una prefazione molto bella. Tra l'altro, una cosa soltanto, c'è un avvocato che si chiama Carlo Taormina, che è stato presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Ilaria e di Miran, che ha scritto che i giornalisti erano in vacanza a spese della RAI. Per questo motivo ho scritto il libro, per cercare di dire che Ilaria e Miran erano in Somalia per fare il loro mestiere e per questo sono morti. Tra l'altro, io voglio salutare, perché si può morire come nelle storie che tu hai raccontato, Daniele, in questo libro, perché magari si va in zone che sono teatro di guerra, come in questi casi. Purtroppo a volte la guerra ce l'abbiamo anche nel nostro paese, solo in Sicilia la mafia ha ammazzato 8 giornalisti, la Camorra ne ha ammazzato solo uno. Si tratta di Giancarlo Siani, 23 settembre 1985, ucciso dalla camorra, aveva 26 anni e proprio oggi in campagna e la settimana prossima in tutta Italia esce il film di Marco Risi, Forte Pace, che ricorda gli ultimi 4 mesi di vita di Giancarlo Siani. Ne saluto il fratello Paolo Siani, buongiorno dottor Siani. Buongiorno, buongiorno a tutti. Perché la camorra ha ucciso un unico giornalista e suo fratello nello specifico? Beh, Giancarlo faceva quello che ha fatto un po' Ilaria, cioè andava a scarpinare, a cercare notizie e scriveva da un territorio di guerra, probabilmente era dove l'Annunziata, qui vicino Napoli, vicino a casa nostra, e ha scritto delle cose che evidentemente non hanno dato fastidio a questi clan. L'articolo che secondo i pentiti e secondo quei giudici è stato quello che ha fatto decidere la sua condanna a morte, è un articolo di giugno 85, quando lui svela un retroscena di una delazione di un clan verso un altro clan. E lui in realtà, se leggendo oggi sui quasi 1000 articoli, andava a fondo nella notizia. E la cosa che più diciamo rammarica è che in quegli anni pochi altri scrivevano queste cose sugli altri giornali, e quindi forse questo è il senso di essere lasciati soli in quel momento. Senta, lei mi ha raccontato quando ci siamo sentiti ieri, e ovviamente ha visto il film, c'è stata una premiere, come si suol dire, e tra l'altro è stato proiettato credo al carcere minorile di Nisida, lei era presente. Come hanno accolto i giovani carcerati, che ovviamente molti saranno in carcere anche perché purtroppo ha stretto contatto con la camorra? Alcuni loro sì, ovviamente. È stata un'esperienza, devo dire, estremamente toccante e emozionante. I commenti di questi ragazzi sono stati strabilianti per tutti noi, a parte che alla fine del film è scoppiato un applauso da parte loro, dei ragazzi che erano in prima fila, convinto, forte, di grande commozione. E loro raccontavano che mentre non li spaventava la morte dei camorristi, che nel film si vede, erano rammaricati alla morte di Giancarlo, cioè il ragazzo non doveva morire, perché è morto proprio lui, perché l'hanno fatto fuori. Infatti alcuni sono pensando che adesso Giancarlo è il nostro eroe e vogliamo, come dire, ispirarci a lui. Noi abbiamo scelto di presentare il film, che a me sembra un bel film, non solo a San Carlo, nel teatro bello della città, nel Salotto Buono, ma l'anteprima anche dove c'è il cuore del problema, cioè nel carcere minorile di Nisida. Questa doppia anteprima che la produzione di Barbagallo e Marco Risi hanno accettato di fare ci sembra molto significativa per dare un segnale forte a questa città. E io mi permetto di aggiungere, se c'è un secondo di tempo, che noi domani a Napoli ricorderemo Ilaria, Giancarlo e tutti gli oltre 900 vittime innocenti di mafia, ma di criminalità in genere. E se posso a questa radio fare un appello ai cittadini della Campania a scendere in piazza domani per far venire fuori l'orgoglio dei napoletani, per, come dire, attestare, dimostrare che Napoli non è tutta camorra, ma anzi Napoli è piena di persone per bene. No, ma guardi, di tempo ce n'è anche, perché andiamo avanti ancora fino alle 8:55. Rimanete con noi, sia Paolo Siani, sia Luciana Alpi, ovviamente Daniele Biacchessi, perché oggi vogliamo dedicarci, insomma, un po' di più, vogliamo dare un po' più di tempo a questo tema che ci sembra molto importante, particolarmente importante. Tra poco sentiremo anche la voce di Raffaele Ciriello, perché mi capitò quelle cose un po' anche di coincidenze sfortunate, mi capitò di sentirlo proprio quando era nei territori palestinesi il giorno prima della sua uccisione. Alle 8:48 minuti sono con noi Luciana Alpi, la madre di Ilaria, uccisa a Mogadiscio proprio 15 anni fa, il 20 marzo 94, e Paolo Siani, fratello di Giancarlo, ucciso, giornalista del Mattino, ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985. Vogliamo parlare di questo, insomma, rischiare la vita per ricordare. Tra l'altro le chiedo, Paolo Siani, ovviamente quando si parla di camorra noi ricordiamo, tra l'altro, che domani è la giornata della memoria, dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia, insomma, organizzata da Libera. Radio 24 la seguirà con molta intensità durante tutto l'arco della giornata. Ieri c'è stata una bellissima manifestazione a Casal di Principe per ricordare Don Beppe Diana, ucciso dalla camorra. Quando si parla di camorra, insomma, l'associazione con Gomorra, ecco, viene spontanea, come lei anche ha ricordato. Le fa un po' male avere scoperto, per esempio, che quei ragazzi di Nisida non conoscevano neanche la storia di suo fratello, oppure no? No, questo capita spesso. Era anche l'altra sera al San Carlo, parlando con alcuni giornalisti, non ricordavano tutta la storia. Questo è un fatto che capita tutti i giorni. del resto sono passati 23 anni e mezzo, quindi come potrebbe non essere così? Per questo io sono molto contento di questo film, perché il film ridà a Giancarlo il giusto premio. La sua storia verrà conosciuta da tutti, anche dai napoletani, che anche dai suoi colleghi, che tutta la storia così bene non la ricordavano più, ho scoperto di Dal San Carlo, ma che ne hanno scritto tanto, devo dire, e verrà ricordato anche al di fuori della nostra regione. E questo per chi come noi, come me, come la mamma di Ilaria, come tutti i tanti familiari vittime che ho conosciuto in questi 3 anni, questa è l'unica nostra vera soddisfazione, fra virgolette, non far dimenticare queste persone, che io vorrei dirlo, non volevano nessuno di loro essere eroi. Giancarlo non voleva affatto essere eroe, Giancarlo faceva soltanto quello che ci hanno insegnato a fare bene il proprio mestiere, ma non voleva affatto essere, non voleva andare contro la camorra e fare una guerra. Lui voleva raccontare quello che vedeva. Signora Luciana, tra l'altro un messaggio da Anna ci arriva, che la saluta e dice: si ricordi che noi che seguiamo Rai 3 non abbiamo mai dimenticato Ilaria. Forse c'è invece da parte sua, da parte di suo marito, anche un pizzico di amarezza invece del fatto che è Ilaria che è stata dimenticata un po' troppo da qualcuno? Beh, sì, dai suoi colleghi sì. Però l'opinione pubblica ci sta vicino, continua a dare dimostrazioni di affetto nei nostri riguardi, di ricordarsi di Ilaria, e questo per noi ci consola molto, è quello che conta, di non essere dimenticata, né lei né Miran, perché non dimentichiamo, certo, che anche lui, Miran, che era la prima volta che andava in Somalia con Ilaria e non è più tornato, è una cosa tragica proprio. Allora, io vorrei fare ascoltare, come detto, quello che mi disse Raffaele Ciriello, che è una delle persone, delle 5 persone che Daniele Biacchessi ricorda, insomma, in questo libro Passione Reporter. Raffaele Ciriello fu ucciso nei territori palestinesi, era a Ramallah in un periodo molto, molto conflittuale. Tra l'altro, proprio il giorno prima dell'uccisione, lo chiamai all'albergo e mi raccontò, ci fu un episodio di una sventagliata anche di Mitra, ma lo racconta lui. Intorno alle 2 c'è stata una sparatoria non lunghissima ma abbastanza nutrita, proprio in direzione del quarto piano qui dell'albergo, perché evidentemente un po' innervositi magari da qualche flash di troppo, da qualche telecamera di troppo, gli israeliani hanno cominciato a tirare. Diciamo che per una mezz'ora siamo rimasti appiattiti sul pavimento, quasi tutte le stanze che danno sulla strada sono state colpite, una delle telecamere lasciate in posizione vicino alla finestra è stata centrata da 6-7 proiettili, uno dei quali ha centrato in pieno l'obiettivo. L'operatore per fortuna non era nei pressi e direi che questi sono stati tutti i danni riportati. Ma la volontà di tenere la stampa al di fuori e lontana c'è sicuramente, perché io e tutta la settimana che sto cercando di coprire, diciamo, queste operazioni sistematicamente, diciamo, mi è capitato di non riuscire ad entrare. È evidente la volontà di tenere la stampa lontana, anche se il più delle volte i mezzi per tenerla lontana non sono una sventagliata di mitragliatrici ma semplicemente un posto di blocco diciamo ferreo. Era il 12 marzo 2002, il giorno dopo, il 13 marzo, quella sventagliata di Mitra, insomma, che in maniera incredibilmente, insomma, profetica, ci diceva Raffaele Ciriello, è arrivata per lui. Ecco, Daniele, anche Raffaele Ciriello era precario, come amava dirsi tra l'altro Siani, cioè giornalista, ma insomma era accreditato per il Corriere della Sera, ma era un fotoreporter, faceva il chirurgo plastico, questa era la sua vera professione. Medico. Raffaele aveva un occhio straordinario e questo libro, Passione Reporter, è dedicato anche a migliaia e migliaia e migliaia di scatti che potete trovare su www.raffaeleciriello.com. Io sono rimasto molto contento perché i genitori, comunque i parenti di Raffaele, hanno lasciato esattamente lì, come voleva lui, tutti quegli scatti. Tra l'altro ci sono degli scatti bellissimi di Miran e di Ilaria in Somalia e di Maria Grazia Cutuli. E quindi quell'occhio straordinario di Raffaele Raffaele, che era un freelance, che quindi non aveva un contratto per un quotidiano, era nei territori con un accredito del Corriere della Sera, ma non aveva un contratto. È certo che loro si spingono molto più in là, perché devono scattare fotografie esattamente a pochi metri da dove vengono i fatti, quindi rischiano di più. Però certo, come dice Ferruccio De Bortoli in apprefazione col senno di poi, certo, però dobbiamo difendere la loro memoria e dobbiamo difendere anche la loro immagine da attacchi spesse volte incontrollati che arrivano dall'esterno. E allora, io per questo c'è il libro che, ripeto, consiglio, ma non tanto perché sia stato scritto da un collega, un amico, che è Daniele Biacchessi, ma perché è un bel libro che ricorda, ripeto, le storie di Ilaria Alpi, Raffaele Ciriello, Maria Grazia Cutuli, Antonio Russo e Enzo Baldoni. Ringrazio ovviamente anche Paolo Siani, fratello di Giancarlo. Questo film, che io non ho visto ma mi dicono sia bellissimo, lo vedrò sicuramente, invitano a vederlo, e Luciana Alpi per essere stati con noi. Grazie davvero. Tra poco c'è Giuliano Ferrara, parliamo con l'elefante delle dichiarazioni del Papa sull'AIDS, le polemiche che ne sono conseguite. I ringraziamenti anche a Laura Marchesi e Alessandro Marco Tulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia, e noi ci ritroviamo lunedì mattina.